Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Cinque minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: tiene banco ancora l'Europa, o meglio il ruolo della Banca Centrale Europea nel arginare l'attacco più o meno speculativo ai debiti dei paesi più in difficoltà, Grecia, e anche di questo parleremo, Spagna, ma con l'obiettivo di fondo anche l'Italia. Tiene banco, dicevo, perché oggi la banca centrale tedesca, la Bundesbank, si è detta molto preoccupata da un piano ventilato da Mario Draghi che andrebbe sostanzialmente a frenare, a fungere da scudo contro un eccesso di spread, quindi acquisto di titoli di Stato. Il governo di Berlino e la banca centrale tedesca si mostrano dubbiosi appunto sul ruolo anticrisi che potrebbe essere giocato dalla Banca Centrale Europea. Il tutto in una settimana, ne parleremo fra poco, cruciale in primo luogo per la Grecia. Il premier greco Samaras incontrerà infatti il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Atene sarebbe pronta a nuove misure di austerità da 2,5 miliardi, però una delle notizie più forti della settimana scorsa riguardava appunto la Grecia e le ipotesi circolate con forza che la Grecia sarebbe andata a chiedere una diluzione del piano di austerità, ossia invece che fare i tagli previsti 12,5 miliardi in 2 anni, avrebbe chiesto 4 anni di tempo. E il tutto poi il giorno dopo le parole di Mario Monti, le ascolteremo ieri al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, quando Monti ha detto insomma vede avvicinarsi il momento dell'uscita dalla crisi. Su questo oggi è intervenuto anche il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, che ha detto sì, anch'io vedo l'uscita, e poi Passera ha anche aggiunto bisogna trovare risorse per il calo delle tasse. Infine avremo un approfondimento su un tema che in questi giorni viene trattato perché è finito l'obbligo di tenere le azioni dell'IPO, del collocamento più importante dell'anno sicuramente, ma anche degli ultimi anni. Mi riferisco a Facebook. Grossa delusione da parte degli investitori e degli azionisti: il titolo ha perso il 50% dal livello del collocamento, e c'è chi si interroga su quanto gonfiate potessero essere queste quotazioni, al di là di errori o voluti o veniali, ma insomma come dobbiamo giudicare i titoli. Non c'è solo Facebook infatti a aver perso molto in questi giorni, altri cosiddetti social network o comunque titoli legati al settore internet, alla rete, non stanno andando bene in borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Visto che parlavamo di borsa, vediamo anche come sta per chiudere Milano: meno 1,30% il FTSE MIB, meno 0,40% Parigi, meno 0,17% Francoforte, e devo dire che l'America perde lo 0,16%, Londra perde 0,5%, Milano perde quindi quasi un punto più delle altre borse. Va detto che soprattutto venerdì scorso Milano assieme a Madrid, anche giovedì, erano state le due borse più forti dopo la più o meno conferma che la Spagna avrebbe chiesto gli aiuti per il colosso bancario in ginocchio Bankia prima del previsto, e che quindi la Spagna andava verso la richiesta anche ufficiale di aiuti. Chi va male oggi? Beh, alcuni titoli che molto erano cresciuti la settimana scorsa, ricordiamo il 17% di Mediaset in una seduta, il 12% di Mediaset in una seduta, ma anche il rialzo molto forte di Finmeccanica. Non a caso Finmeccanica perde il 5,20 oggi, Mediaset il 4,34, Estima Microelectronics il 3,80, Telecom il 3,70, Popolare Emilia Romagna perde il 3,5% come evoluzione, il 3% perde Fiat e anche UbiBanca, il 2% Atlantia e Azimut, ma anche A2A e Saipem, Fiat Industrial meno 2%, Ansaldo CTS meno 1,90 come Mediolanum, l'1,80 lo perde Prismian, e anche la Popolare di Milano, Pirelli meno 1,70, Unicredit meno 1,60%, Parmalat 1,5% di calo, meno 1,30 invece Enel Green Power ed Exor. Continua a guadagnare invece Monte dei Paschi, già fortissima lì sì, il 17% di rialzo la settimana scorsa sull'ipotesi che la Fondazione Monte dei Paschi ceda parte della sua quota dentro la banca, ipotesi avanzata dallo stesso presidente Alessandro Profumo, più 3,60%, Mediobanca più 0,66%. Rapidamente le altre notizie in breve. Poco mosso e petrolio fermo, l'oro è sempre a 1617 dollari l'oncia, il petrolio è a 95,83 dollari al barile. Domani torneremo a occuparci, lo dico visto che parliamo di materie prime, di siccità, perché oggi tra l'altro la Confederazione Italiana Agricoltori ha stimato che tra caldo e altri danni ai cari produttivi per caldo e siccità c'è anche un aumento dei costi aziendali per il mondo dell'agricoltura, spinto dalla corsa dei carburanti e problematiche connesse alla manodopera. Insomma, il saldo negativo al termine dell'annata agraria potrebbe sfiorare il 1,2 miliardi di euro. Veniamo adesso ai temi europei. Allora, come va? Vogliono sapere quindi voi come va lo spread italiano. È tornato a 430 punti, sempre meglio di come non fosse a fine luglio, ma sicuramente un livello ancora alto. Finché, io continuo a dire, lo spread non scenderà a 300, sotto i 300 punti non potremo essere soddisfatti. Ricordo che un anno e mezzo fa, prima che iniziasse tutto l'attacco alle varie economie percepite più deboli, il nostro spread a febbraio viaggiava ancora a 110-120 punti e l'Italia non è che fosse messa meglio di adesso un anno e mezzo fa. Né la Spagna, voglio dire, è uno spread che rafferma quei livelli da anni. Poi improvvisamente, tutti sappiamo che è successo, marzo, aprile in poi, parte la speculazione sulla tenuta dell'euro e l'Italia ne viene coinvolta in pieno. E di questo ha parlato appunto ieri il Presidente del Consiglio Mario Monti al meeting di CL, frase che oggi trovate su tutti i giornali: vedo avvicinarsi il momento dell'uscita dalla crisi. Io parlo quasi quotidianamente di crisi, lavoro quotidianamente contro la crisi italiana ed europea. Un anno fa pensavamo meno di oggi di essere in crisi, ma credo che lo fossimo di più. Ma allora crisi è il momento in cui si esce, e io per molti aspetti lo vedo avvicinarsi questo momento. E adesso fatemi fare però una battuta, che è una battuta che devo a un ascoltatore di qualche settimana fa, che disse la luce, cioè questo un po'. Tutti vorremmo vedere la luce in fondo al tunnel, e immagino appunto anche il Presidente del Consiglio. Delle volte c'è un po' di retorica sulla luce in fondo al tunnel, e questo ascoltatore ci ha scritto: anch'io vedo la luce in fondo al tunnel, è quella del treno che ci sta arrivando contro. Vabbè, Mario Monti sull'euro: tragedia se l'euro dovesse diventare un fattore di disgregazione. Sapete quale sarebbe la maggiore tragedia per l'Europa e per l'Italia? Se l'euro, inteso come il pinnacolo della costruzione europea, la Madonnina direbbe un milanese sul Duomo, inteso come il coronamento del sogno di integrazione e di unità, diventasse, per l'incapacità nostra di governanti degli stati europei, un fattore di disgregazione. E poi la frase che ha fatto molto discutere, anche perché veniva dopo la dichiarazione dell'evasione fiscale come una guerra vera e propria del paese. Mario Monti ha detto, insomma, ai TG della RAI, immagino possa valere anche per tutti, come invito del Presidente del Consiglio: non chiamate più furbi gli evasori fiscali. Darò un suggerimento amichevole a chi dirige la RAI di non usare più l'aggettivo furbi nei telegiornali che descrivono la lotta contro l'evasione. Non si possono trasmettere neppure in modo subliminale valori che sono concessivi di deroga, di tolleranza e tutto sommato di indicazione di modelli che distruggono la società italiana. Su questo una nota brevissima, sono totalmente d'accordo col Presidente del Consiglio, a meno che il termine furbo, perché bisogna capire anche come lo si utilizza, in Francia furbo è offensivo, dire a una persona che è furbo significa dargli del così malandrino, allora uno può usarlo, ma siccome in Italia sappiamo che il termine furbo spesso, purtroppo, non solo sull'evasione fiscale, diventa quasi un encomio, quasi un complimento, ah come sei furbo, sei stato furbo, allora ha ragione Monti. Ripeto, la furbizia viene declinata in vari modi, in paesi diversi dal nostro è un elemento negativo dire di una persona che è furba, che appunto non è trasparente, tira gira, ha un atteggiamento poco corretto. Da noi dire furbo spesso, lo sappiamo, vuol dire che sei stato più sveglio degli altri che sono un po' più scemi. Allora, se passa il concetto, che devo dire è stato esposto nel passato anche ai massimi livelli istituzionali, che l'evasione è giusta, che l'evasione si deve fare, che l'evasione cosa vuoi fare, le tasse sono troppo alte, devi evadere, a parte il fatto che chi ha ritenuto la fonte, ossia tutti i lavoratori dipendenti, questo ragionamento non lo può fare, ma è chiaro che si dà un avallo anche linguistico, anche, fatemi usare il termine, semantico, all'evasione, che negli altri paesi è reato pesantissimo, al di là delle manette negli Stati Uniti. Pensate cosa ha fatto la Gran Bretagna pubblicando le foto dei 20 principali evasori del paese. Così Monti appunto ieri, oggi il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera è stato chiesto un commento sulle parole di Monti, quelle riferite sull'uscita, vede avvicinarsi il momento di uscita dalla crisi. Così il ministro Passera, che poi ha aggiunto, dopo aver detto sì, vedo l'uscita, quello che mi preoccupa più nel paese è la produttività, ancor più mi preoccupa dello spread. In termini di produttività del lavoro siamo passati da meno 5 a meno 12 punti percentuali rispetto alla media europea. In termini di costo del lavoro per unità prodotta siamo sotto di 8 punti. Allora vedete che oltre allo spread di cui parliamo e leggiamo ogni giorno sui giornali, ce ne troviamo un altro di ben 10 punti almeno da recuperare. Che se non recuperiamo non basterà neanche andare a recuperare quello che dobbiamo comunque andare a recuperare in termini finanziari. Così Corrado Passera, sempre dal meeting di Comune Liberazione a Rimini, e sempre ministro dello sviluppo economico, è tornato anche sul tema delle tasse, in questo caso dicendo però una cosa che obiettivamente è incontrovertibile, così come ho appena finito di difendere la lotta all'evasione e dà ragione a Monti quando dice attenzione, non si può usare un termine furbo, quasi un complimento per chi evade, è anche vero che da qualche parte questa pressione fiscale su chi le tasse le paga bisognerà iniziare a ridurla, o perlomeno iniziare un percorso di riduzione, non dico subito perché i conti sono quello che sono, ma un percorso di riduzione. Passano. Abbiamo uno dei livelli di tassazione più alti al mondo, naturalmente per chi paga le tasse, e questo è un'altra zavorra che dobbiamo correggere, ma naturalmente tenendo conto di quello che è successo. Tutto questo stava portando al commissariamento del nostro Paese, alla fine del nostro Paese dal punto di vista della sua libertà, sovranità, indipendenza. Questo è stato evitato, grazie soprattutto al lavoro orchestrato e impostato e alla credibilità personale di Mario Monti, però dobbiamo sapere che ci siamo arrivati molto vicini. Tutto questo ha portato stress sulle risorse da dare al welfare. E poi Passera ha aggiunto, dobbiamo trovare risorse per arrivare a un calo delle tasse, aggiungendo la coesione sociale è un elemento portante per la crescita, e poi dando anche un commento sull'eredità della Seconda Repubblica definita molto molto deludente. È una delle lezioni delle crisi che ci siamo inanellate una dopo l'altra in questi anni, dovranno essere affrontate riconoscendo che crescita, sviluppo, coesione sociale e welfare devono andare insieme. Non c'è più l'economia che va per la sua strada e la società che va per la sua strada. E guai a quelle comunità che pensano che l'economia faccia e poi con le briciole, con i resti o anche soltanto con la redistribuzione si possa pensare alla società. L'agenda dello sviluppo dovrà essere fatta, sarà fatta in paesi come il nostro, avendo ben presente che lo sviluppo viene dalle due cose. Dobbiamo superare una fase della storia che non è stata granché dal punto di vista della classe dirigente un po' di tutto il mondo. Abbiamo voluto andare, non noi, ma insomma si è voluto andare in una direzione di economicismo estremo che forse grazie a questo estremismo ha dimostrato tutti i suoi limiti. Dobbiamo dimostrare concretamente che attraverso sviluppo e coesione si può fare vera crescita, si può fare occupazione. E poi i temi di maggiore attualità, sempre il ministro Pass l'ha detto per quello che riguarda la Fiat, l'azienda ha fatto comunicazioni diverse rispetto a Fabbrica Italia e quindi al progetto iniziale di investire investimenti importantissimi per realizzare gli stabilimenti, per implementare, rafforzare gli stabilimenti in Italia. E ci auspichiamo, ha detto Passera, che ci sia nelle prossime settimane un chiarimento a noi e al paese su quello che la Fiat intende realmente fare. Devo dire che anche in questo caso sono d'accordo col ministro. Marchionne ci dica che cosa vuole fare senza continuare a avanzare altre ipotesi o altre. Vuole restare in Italia, vuole produrre all'estero, vuole restare in Italia con che investimento? Conferma il progetto Fabbrica Italia o non lo conferma? E poi sull'ILVA, il ministro Passera, no, decisioni irrimediabili come lo spegnimento, le modalità di gestione dell'ILVA sono state tali da produrre un disastro doloso, ha detto comunque riferito al modo in cui l'ILVA è stata gestita in questi anni, azioni di emissione avventano un'elevata potenzialità distruttiva dell'ambiente tale da provocare un effetto pericoloso per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. Questo è quanto il Tribunale del Riesame oggi ha fatto sapere, lo trovate anche nei nostri GR, in merito all'attività dell'IVA in questi giorni. E il Tribunale del Riesame in questi anni, scusatemi, il Tribunale del Riesame ha anche aggiunto: lo spegnimento degli impianti rappresenta allo stato solo una delle scelte tecnicamente possibili, si deciderà sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi amministratori. E oggi ospite del nostro Oscar Giannino questa mattina, il presidente dell'IVA di Taranto Bruno Ferrante ha detto: si può risanare solo se gli impianti restano aperti. Interventi per attenuare l'impatto delle polveri, anche quelle provenienti dai parchi minerali, sono in corso. Noi in questo momento stiamo realizzando una barriera, una rete molto alta 21 metri, lunga 2 chilometri, una barriera che serve proprio a contenere queste polveri. Queste sono disposizioni che c'erano state date dal Ministero dell'Ambiente e che noi stiamo attuando in questo periodo. Naturalmente altri interventi in questa direzione ce ne possono essere. Lo stabilimento è stato all'origine, quando è nato, posizionato male, perché i parchi minerali sono stati collocati troppo vicino a zone abitate che poi sono cresciute nel tempo, perché quella zona abitata che era più piccola negli anni è cresciuta notevolmente. Devono essere realizzate ancora delle colline che devono fermare le emissioni dei parchi minerali, però tutto questo può avvenire se il ciclo produttivo e l'attività degli impianti prosegue, altrimenti se noi decidessimo di fermare l'attività, questo vorrebbe dire la fine dell'azienda. Mi piace ricordare una frase del ministro Passera: se si chiude non si riapre, e il senso è proprio questo. Quindi noi dobbiamo lavorare per il risanamento, ma si può risanare soltanto tenendo attivi gli impianti. Ecco, questo è un passaggio che è scritto anche tutto sommato nelle ordinanze, perché quando il GIP e il Tribunale del Riesame dicono risanare, mettere in sicurezza, vogliono dire che bisogna continuare a tenere accesi gli impianti, perché se si spengono gli impianti non ci può essere assolutamente messa in sicurezza. Così appunto sulla vicenda Ilva. Devo dire che molti ascoltatori hanno idee diverse, va benissimo, al 349-238-6666 sul tema dell'evasione, quello toccato ieri da Mario Monti e oggi da Corrado Passera. Dicono che l'evasione dipende anche dall'incapacità del fisco di trovare gli evasori e riscuotere le imposte. È vero, è anche vero che la fedeltà fiscale in altri paesi è più alta, non giriamoci attorno, no? C'è un senso civico più alto, è vero che poi io posso capire, guarda, lo dico sinceramente, la tentazione di chi dice perché spaccarsi la schiena da mattina a sera e mettere i soldi nel calderone generale dove poi vengono spartiti, sarebbe questo essere intelligenti? Guardi, io posso capire la frustrazione visto anche il cattivo funzionamento delle volte della macchina pubblica, che noi raccontiamo spesso nella nostra rubrica ma cos'è questa crisi a livello regionale, comunale, provinciale, statale. Però non c'entra, uno le cose le deve cambiare da dentro, non è che siccome io trovo sbagliato un semaforo rosso o trovo che sia sbagliato uno stop o un'indicazione stradale non rispetto le regole della strada, perché sennò ognuno si fa le leggi da solo. E poi dove stabiliamo quanto dare e quanto invece tenere, nel senso di evadere, tenere sotto il materasso? Io vorrei ricordarvi le dichiarazioni dei redditi di molte categorie di questo paese che sono ridicole. Ci sono intere categorie, i ristoratori, gli albergatori, i gioiellieri, che se guardiamo le dichiarazioni dei redditi medie guadagnano 1.100 euro lordi, 1.200 euro lordi al mese. Stiamo parlando dai 18.000 ai 23.000 euro lordi per le categorie che ho appena citato, e sono solo alcune, Potremmo andare avanti con tantissime altre. Qui. Pur capendo le emotività, è un discorso che non regge, perché non puoi stabilire tu quanto dare allo Stato. Però, proprio perché è giusto chiedere il rispetto delle regole e delle leggi e bastonare chi evade, ma anche chiedere che i soldi che uno versa dopo la fatica e il lavoro vengano utilizzati e non sprecati, oggi apriamo un'altra pagina non esaltante, non edificante della nostra rubrica Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, un tango della Maiella ci vuole, perché adesso ci occupiamo oggi della regione Lazio, la nostra base quando ci occupiamo degli sprechi delle varie regioni. Perché? Perché la Regione Lazio, lo dobbiamo a Sergio Rizzo sul Corriere della Sera di oggi, versa i partiti sotto forma di contributi 4 volte in più di quello che fa la Camera dei Deputati rispetto ai deputati, che già. Il gruppo consigliare dei radicali della Regione Lazio, composto da soli 2 membri, ha ad esempio ricevuto nel 2011 422.000 euro, 211.000 euro a testa, che vanno ad aggiungersi a stipendi di aree, eccetera. Se si tiene conto che i consiglieri in tutto sono 71, riuniti in 17 gruppi, 17 gruppi per 71 consiglieri, ci sono infatti gruppi di un solo consigliere in monogruppi, si arriva a una cifra di 15 milioni di euro che fa apparire virtuoso perfino il nostro Parlamento. Infatti la Camera nel 2011 ha elargito contributi per 36 milioni di euro, ripeto, i contributi vanno a sommarsi allo stipendio da deputato o da consigliere regionale, alla diaria e a tutte le altre cose. È una cosa in più, si dice, perché devi avere un rappresentante per il tuo staff, per quello che vuoi. Comunque la Camera ha speso 36 milioni di euro per 630 deputati, che fanno 57.000 euro a testa, mentre la Regione Lazio ne ha versati appunto di 4 volte in più. Però prima di passare alla Grecia, che è un tema leggero, vorrei chiudere con una bella notizia. I famosi 8 agenti fissi davanti alla villa di Roberto Calderoli sui Colli di Mozzo, molti ascoltatori ci hanno scritto nel bergamasco dicendo: non è possibile avere 8 poliziotti, 8 agenti fissi davanti alla casa di Calderoli, sia quando c'è sia quando non c'è. Sono stati levati, erano 8 uomini tra carabinieri e poliziotti finanziari, restavano di guardia davanti alla villa anche quando l'ex ministro leghista non era presente. Era stato disposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Bergamo, essendo Calderoli nel mirino degli estremisti islamici fin dal 2006, a seguito della famosa vicenda della maglietta con la caricatura di Maometto. Calderoli però manterrà la scorta personale, che è formata da altri 8 agenti, 4 a Roma e 4 a Bergamo. Anche questo servizio va scatenando la protesta dei sindacati di polizia. Il tutto è costato, visto che poi parliamo di sprechi, 900.000 euro ai contribuenti. Va benissimo la scorta, però insomma, no? Siamo convinti delle minacce, io mi fido del Viminale, se le minacce sono così alte, se Al-Qaeda ancora ha come obiettivo Roberto Calderoli, fa bene a mettergli la scorta. Noi invece adesso andiamo dalla scorta di Calderoli alla Grecia, che vivrà e sta vivendo già una nuova settimana di passione. 349-238-6666 per i vostri sms. E con la nostra ballata dell'euro torniamo a parlare di Grecia, perché perché mentre la Germania di nuovo è tornata, lo dicevamo, a criticare la Banca Centrale Europea dicendo attenzione, non ci convince, siamo molto dubbiosi, una banca centrale che interviene comprando titoli di Stato dei paesi sotto attacco, Spagna o Italia, per abbassare lo spread, per non far alzare troppo lo spread. Beh, insomma, ieri il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ieri ha parlato di un piano B in caso di uscita del paese, della Grecia, diciamo, dall'euro. Il ministro dell'economia Roesler ha dato una nuova sferzata al governo di Atene, che, con un commento molto duro, che tra l'altro arriva poco prima del colloquio atteso per venerdì fra il primo ministro greco Antonis Samaras e Angela Merkel, durante il quale presumibilmente il premier greco cercherà di convincere Angela Merkel a dare altri 2 anni alla Grecia per quello che riguarda le riforme. Rassicurazioni oggi sono arrivate dal ministro delle finanze greco Sturnaras, che ha detto andremo avanti con i tagli, con l'austerità, altri 2,5 miliardi, però insomma è chiaro a tutti che c'è un nuovo irrigidimento in corso. Ne parliamo con Vittorio D'Arold, che da sempre segue la Grecia per i suoi 24 ore e in questo momento però seguirà anche il tour, diciamo, europeo di Samaras, quindi Parigi e Berlino. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, settimana di fuoco, le dichiarazioni che abbiamo visto del ministro Schäuble delle finanze e anche dell'economia russa della Germania sono, secondo te, un po' di pretattica comunque elettorale? Ricordiamo che si vota a marzo in Germania, per fare la faccia feroce, o in realtà vogliono far capire al premier greco che cosa lo attende venerdì a Berlino? No, c'è sicuramente un elemento elettorale, ci sono i bavaresi, i duri, che non vogliono cedere, soprattutto Markus Söder, che è un politico della CSU, appunto l'ala bavarese della CDU, che fa parte appunto del partito conservatore al governo, che vorrebbe addirittura far uscire la Grecia dall'euro. Poi ci sono naturalmente le colombe, come il ministro degli esteri Guido Westerwelle, che oggi ha detto assolutamente non se ne parla, l'Atene deve restare, gli dobbiamo dare il tempo necessario, ma la verità è che proprio è la società tedesca che è spaccata, che è divisa. Da una parte ci sono i falchi, cioè ci sono i bavaresi, la fronda di alcuni dei liberali, e dall'altra appunto ci sono le colombe, tra cui il ministro Westerwelle, o i socialdemocratici, mm-hmm, tra cui l'ex ministro degli esteri Joschka Fischer, e tra parentesi la SPD non ha ancora deciso quale sarà il candidato, mm-hmm, il competitor contro Angela Merkel. C'è una troica anche lì che sta cercando di trovare uno sfidante, quindi si è pretattica, ma nello stesso tempo c'è una stanchezza all'interno della società tedesca che vede la Grecia in qualche modo come un pozzo senza fondo, dove appunto il premier Samaras arriverà venerdì e chiederà ancora una volta una dilazione, un rinvio per i tagli, cosa che qui da queste parti proprio non viene capita. Sì, tu dici giustamente da queste parti, perché in questo momento sei a Berlino. Dopo il metro e la pubblicità vorrei capire invece il fronte, tu ci hai ben spiegato il fronte tedesco anche dal punto di vista di quello che li attende come schieramenti politici viste le elezioni. Però dopo il metodo vorrei sapere invece il fronte greco, perché insomma la motivazione greca è: non abbiamo un'economia che sta crollando, è in recessione più del previsto, non riusciamo a garantire 12 miliardi e mezzo di tagli in 2 anni, dateci 4 anni. Rispondo però prima a un ascoltatore che dice: ma insomma, perché non parlate mai del vantaggio che ha la Germania da questa crisi, la svalutazione competitiva con un'inflazione più bassa di quella fissata dalla Banca Centrale Europea, che ha vantaggi tedeschi, il fatto che si rifinanzino a costo zero, se non sotto zero, rispetto agli altri paesi concorrenti, Italia, Spagna, ma anche Francia. Oh, l'abbiamo detto 1000 volte questo, cioè che la Germania, piaccia o non piaccia, volente o nolente, in questo momento abbia solo vantaggi dalla crisi, guardate i rendimenti dei titoli tedeschi, sono sotto zero, questo è chiaro a tutti. Dopodiché, secondo me, la Germania deve stare attenta, perché se la crisi peggiorasse e arrivasse alla spaccatura dell'euro, avrebbe solo svantaggi dalla fine dell'euro. Comunque, meteo, pubblicità e poi il fronte greco. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per chiudere l'approfondimento sulla Grecia, poi darò una risposta anche sulla scorta Calderoli, anzi la do subito. Un ascoltatore scrive che lei sia Barisoni, che lei sia antileghista, lo sanno anche i sassi, ma è possibile che costi i contribuenti solo la scorta di Calderoli? No, abbiamo parlato anche di quella di Fini, che poi io sia antileghista, lo dice lei, io sono anti qualunque cosa, se qualcosa non mi piace, e abbiamo parlato anche di quella di Fini. Raccontiamo da mesi, tutti i giorni, gli sprechi delle regioni del centro-nord, del centro-sud, amministrate dalla destra, dalla sinistra, dal centro, me ne frega nulla, per cui a me, io trovo solo allucinante che ci fossero, e molti ascoltatori ce l'hanno scritto, 8 poliziotti davanti alla casa di Calderoli in provincia di Bergamo, anche quando non c'era, per il timore che Al-Qaeda ancora volesse l'estremismo islamico prendersela con lui per quella famosa maglietta che lui mise. No, per cui mi sembravano 900.000 euro e la denuncia del sindacato di polizia mi sembrano tantini. Detto ciò, Vittorio D'Arolde, proviamo a essere empatici con la Grecia. Quali sono le ragioni che Samaras addurrà sia a Hollande che poi a Angela Merkel per chiedere 2 anni in più per i tagli? Samaras naturalmente ha un governo di coalizione insieme al PASOK, i socialisti di Venizelos, e poi con un piccolo partito della sinistra, quindi sa che non può fare un'austerità troppo rigorosa, e in questo caso gli 11,5 miliardi di nuovi tagli per il biennio 13-2014 deve ancora una volta incidere su pensioni, sanità, pubblico impiego, cioè licenziamenti di pubblico impiego, che deve essere ridotto di altri 40.000 addetti pubblici. Questo è il vero problema. Lui cercherà di avere una dilazione, perché in questo modo cercherà di diluire le tensioni sociali, e altrimenti ci sarà appunto crisi di governo possibile ad Atene e nuove elezioni. Questo è il vero gioco. Samaras, ecco, cercherà in qualche modo di essere convincente su questo, garante di questa transizione. Però scusami Vittorio, proprio perché in ballo c'è, e se non voglio fare il pro greco, abbiamo criticato la Grecia in tutti i modi per l'evasione che ha, per la gestione dei conti pubblici, però se il rischio è questo, cioè che se non si dà un po' più di tempo per questi tagli, salti di nuovo il governo greco, di nuove elezioni, di nuovo scontri sociali, a questo punto diventa sempre più difficile salvare la Grecia, veramente sarebbero ingestibili, inaccettabili 2 anni in più. Voglio dire, loro devono tagliare di 12 miliardi e mezzo la spesa pubblica, i costi dello Stato, no? L'austerità, sì. Se anche questo lo ottengono in 4 anni invece che 2, ma intanto resta in carica il governo, voglio dire, non sarebbe accettabile? Oppure tu ritieni, come pensano i tedeschi, che sia un'altra tattica per non farli si tagli? No, assolutamente accettabile, perché quello che chiede è ragionevole, anzi all'interno del Fondo Monetario ci sono degli economisti che dicono che con una crisi così forte, oggi il PIL è a meno 7%, non è possibile quindi fare una cura così forte di austerità e di rigore in così poco tempo. Il vero problema è quella della credibilità del governo, cioè Samaras deve dire e deve far credere che quello che questa volta chiede sarà poi mantenuto, che non sarà ancora una volta un trucco, un modo per prendere tempo e poi non fare le riforme, perché purtroppo la Grecia ha un passato che non è assolutamente appunto credibile, non ha truccato i conti numerosissime volte ed è questo quello che pesa. Però c'è un fatto che dovrebbe essere positivo, sia la Merkel che Samaras fanno parte della grande famiglia del Partito Popolare, quindi in qualche modo dovrebbe essere facilitato nella trattativa. E torniamo a un tema che abbiamo visto molto forte e molto presente anche per l'Italia, cioè la credibilità del singolo Presidente del Consiglio. In questo momento, mai come adesso, tale è la scarsità di fiducia nei confronti dei sistemi politici della Grecia, ma anche dell'Italia, la Spagna forse un po' meno, che quello che pesa è la credibilità, nel caso di Mario Monti, del nostro Presidente del Consiglio, nel caso di Samaras, del Presidente, della persona vera e propria. Perché se vai a guardare, invece, come tu ricordavi, al passato, non ti viene voglia di fidarti nel caso della Grecia e forse anche nel caso dell'Italia. Grazie Vittorio D'Arold, che ci terrà compagnia tutta la settimana praticamente, visto il vertice di venerdì tra Angela Merkel e il premier greco. Adesso la borsa. Chiusura debole ma niente di preoccupante, -1% Milano nel finale, -0,20 Parigi, -0,1 Francoforte, -0,50 Londra. E l'America perde lo 0,1%, vendite su titoli che molto erano cresciuti la settimana scorsa, a partire da Finmeccanica, ma anche e soprattutto Mediaset. Ciao Condina, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Beh, diciamo, Mediaset e Finmeccanica, possiamo -5% Finmeccanica, -3,80% Mediaset, possiamo archiviarle sotto la voce vendite, dopo, cioè realizzi, dopo che il titolo molto era cresciuto. Assolutamente sì, dai. Insomma, visto che dal 25 luglio Finmeccanica aveva guadagnato il 46%, dal 3 agosto Mediaset aveva guadagnato il 34%, c'è qualcuno che oggi ha deciso di pagarsi un po' le vacanze di fine agosto. Non è capitato così però per Monte dei Paschi, che venerdì aveva guadagnato il 17% in un botto, sull'ipotesi che la fondazione scenda come quota dentro la banca. Oggi è il miglior titolo tra quelle avanti, anche perché oggi avevano guadagnato molto i bancari, diciamo nella prima mattinata la borsa era positiva, poi è arrivata questa mezza smentita della BCE sull'ipotesi di un'istituzione, di un tetto segreto per gli spread. Comunque, al di là di questo, le banche guadagnavano molto questa mattina. Monte Paschi era la migliore, guadagnava addirittura l'11%, poi alla fine ha chiuso con un guadagno del 5%. Perché? Perché si torna ancora a quelle dichiarazioni del presidente Alessandro Profumo sul fatto che la fondazione possa ulteriormente diluire la propria partecipazione e che dunque nell'azionariato possano entrare nuovi soci. Poi ci sono anche le previsioni che circolano sul mercato sui conti del primo semestre, con una perdita superiore al miliardo di euro, poiché si dovrebbe nuovamente svalutare l'avviamento legato alla famosa acquisizione di Antonveneta. Se così fosse, diciamo che l'ingresso dello Stato nel capitale della banca diventerebbe inevitabile, perché come è noto i Tremonti Bond dovrebbero essere remunerati in azioni se la banca chiuderà in perdita, quindi chissà, forse il prossimo azionista del Monte Paschi a breve termine potrebbe essere proprio il Tesoro. Sì, c'è anche questa ipotesi sul tappeto. Telecom Italia perde il 3,60% invece, ma per altri motivi. Qui è una questione che era già emersa venerdì, c'è l'ipotesi di una maxi contestazione da parte del fisco brasiliano per oltre mezzo miliardo di euro. Ovviamente ci sono, come in tutti questi casi, diversi gradi di giudizio, però per il momento il mercato è piuttosto preoccupato da questa ipotesi, anche perché in caso di Telecom si lavora molto insomma sull'abbattimento del debito, è una tegola di queste dimensioni sarebbe abbastanza significativa. Male anche ST Microelectronics, -3,70%, Buzzi Unice, -3,40%, Popolare Emilia Romagna, -3,30%, Fiat, -2,60%, Ubi Banca, -2,5%, Prismian, -2,30%, Prismian, Elex, Pirelli Cavi, come Atlantia, Saipem, -2,20%, Mediolanum, -2%, positiva invece il Banco Popolare dell'1%, Mediobanca e Intesa che guadagnano .5%. Dopo il traffico vorrei chiudere con titoli minori, ma non solo, Campari, Luxottica e Ferragamo. Focus Economia. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Ciao Condina, dicevo, titoli che hanno perso meno oggi, che sono, hanno ottenuto Luxottica, Campari, Ferragamo. Un po' i titoli, diciamo, vabbè, Campari non è un titolo del lusso, però comunque no, sono dei cosiddetti titoli rifugio. Dipende quanto ne bevi, diciamo. Abbastanza, se ne bevi parecchio poi anche. E anche del lusso. No, ma al di là della battuta sono titoli che oggi si sono mossi assolutamente. Sì. Sono risaliti appena la borsa ha iniziato a perdere seriamente, la borsa di Milano questo pomeriggio è arrivata a perdere più del 2% dopo l'apertura negativa di Wall Street, mentre le banche sono tornate in rosso, questi titoli sono tornati sopra la linea di galleggiamento, poi la chiusura un po' conferma questa impressione, perché Ferragamo fa meno 0,2%, Campari meno 0,3%, insomma comunque meglio del benchmark, che è il FTSE MIB che ha perso l'1%. Certo. Grazie, Cio Condi, nella Radio Colle sulle 24 ore, vedo anche i migliori e peggiori in assoluto, come sempre, Elica più 11,30% è il miglior titolo, e Premafin più 7,90%, Unipol sul privilegio bene 7,5%, PMS meno 8,44%, Sintesi meno 5,60%. Noi restiamo in tema di borsa, ma questa volta ci spostiamo a Wall Street per cercare di capire che cosa è successo tra titoli che potrebbero appartenere, tra società che potrebbero sembrare dello stesso mondo, una volta si chiamava New Economy, .com, ma in realtà c'è una divergenza netta tra come stanno andando in borsa i cosiddetti titoli che rappresentano i social networks e come vanno invece titoli di società che sono quasi old economy nel mondo internet, quindi i vecchi internet provider, quelli che insomma, o addirittura chi fabbrica software e non social network. Sì, perché oggi abbiamo due notizie diverse. La prima che riguardano comunque il mondo che generalmente va sotto la voce di andava sotto la voce di New Economy o comunque tecnologia. Apple continua a correre, una corsa senza freni, che infatti ha aggiornato i suoi massimi storici, vale $660 ad azione, 660,30, che portano la capitalizzazione di mercato, cioè quanto vale tutta la Apple quotata in borsa, a $618 miliardi, ha superato anche il record che apparteneva a Microsoft addirittura nel dicembre del 99. Quindi molto bene la creatura di chi? Dell'allora Steve Jobs, del compianto Steve Jobs, molto male invece Facebook e quindi Zuckerberg. Praticamente giovedì scorso è scaduto il lock-up, l'obbligo di tenere le azioni, insomma quanto valgono? È sceso sotto i $19 per azione, ha perso il 50%, ma non solo, c'è anche Groupon, che è quel sito di acquisti collettivi online, e anche Zynga, che è un sito di videogiochi su internet, primo fornitore in questo campo di Facebook. Tutti e due questi titoli, queste società collocate in borsa, hanno già perso il 70% del loro valore. Tiene solo LinkedIn, che in un anno e mezzo sito per incontri e per scambiare profili, che in un anno e mezzo ha raddoppiato il suo valore. Lì però appunto è un sito professionale di curricula per trovare lavoro. Quindi, però vorrei capire il perché di questa divergenza, lo facciamo con l'amministratore legato di Saxo Bank Italia, banca olandese di investimenti e trading online, che ha sviluppato proprio un'analisi sull'andamento di questi collocamenti. Dottor Giampaolo Bazzani, buonasera. Buonasera. Allora, se lei dovesse dirmi in una battuta perché Apple aggiorna i massimi storici e dall'altra parte Facebook ha già perso il 50% dal suo collocamento e il 70% hanno perso Groupon e Zynga, quale chiave di lettura mi darebbe? Dunque, visto che mi chiede una battuta... No, battuta nel senso di... battuta e anche risposta, prego. Facebook sta dimostrando di non essere capace di farsi pagare. Nel senso che ormai si avvicina ad avere 1 miliardo di utenti e il ricavo per utente è poco superiore ad $1 per la società. Evidentemente non è capace di far pagare ai milioni, miliardo di utenti il prezzo per il servizio che rende. servizio sociale, quindi difficilmente misurabile, e questa è la sfida per il futuro per Facebook, e questo è uno dei punti dell'analisi che abbiamo condotto sul titolo. Mi scusi, ma quando è stata collocata a $38, visto che adesso ne vale 17, la metà, dunque la data esatta non me la ricordo, ma insomma, sarà passato un mese, se lo ricorderà sicuramente lei, ma gli analisti non potevano dirlo già allora? Cioè non è che scopriamo adesso che Facebook ha difficoltà a rendere remunerativo, diciamo, il giochino, no? No, non lo scopriamo adesso, c'è qualcuno che l'ha scritto, per me adesso è facile al telefono dirle che noi eravamo tra questi. No, me ne credo. Mi ha chiamato apposta. Esatto. Il titolo al prezzo di collocamento di $38 del 18 di maggio. Esatto. Prezzava 40 volte il rapporto di price earning, quindi il rapporto prezzo azione utile attese, 40 volte gli utili attesi. Perfetto. Sopra i 20, quando il rapporto è sopra il 20, si può considerare il titolo sopravvalutato. Eravamo a 40. Oggi che il titolo quota a 19,20, quindi a metà del suo valore di collocamento, questo rapporto è sceso al 22%. È alto, ma mette sotto una nuova luce il titolo Facebook per un investitore interessato al medio periodo. Sì, io sono della vecchia scuola, per cui già 11, 12, 15 volte il rapporto prezzo utile atteso è buono, no? Nel senso, ai tempi della bolla speculativa della New Economy vedevamo titoli quotare 70 volte l'utile atteso, ma come fai a comprare un titolo sperando che riesca ad avere 70 volte l'utile atteso nell'arco di un certo periodo di tempo? Però lei mi dice 20, va bene, ma il motivo per cui, e questo è il motivo anche per cui anche Groupon ha perso 70%, Zynga, cioè non si capisce come faranno a fare i soldi, se mi permette una sintesi un po' brutale. Sì, sono d'accordo con lei, sì, in particolare nel caso di Zynga, lei diceva bene, molto legato a Facebook, la difficoltà è estrarre valore, scusi la crudezza, dalla base di clienti. Cioè ragazzini che giocano con i videogame, chiedo. Esattamente, esattamente. Quindi il target di Facebook è estremamente variegato dal punto di vista sociodemografico, quindi dai ragazzini a chi come me ha già compiuto gli ANTA e probabilmente anche persone più anziane che sono avvicinate non da molto ai social network. Il punto è che dai ragazzini non si estraggono soldi perché giocano gratuitamente, ci sono molti siti dove si può giocare gratuitamente. La sfida di Facebook è far crescere, come accennavo prima, la redditività per singolo utente. La nostra analisi ha cercato di ipotizzare come potrà fare da qui a 5 anni Facebook a procurare denaro ai propri azionisti. Beh, che dai ragazzini non si estraggano soldi lo sanno tutti i genitori, casomai il contrario, sono i ragazzini che ti estraggono i soldi. Mi dice, secondo lei, come potrà Facebook iniziare a produrre soldi, oltre che, diciamo, social networks e contatti? Allora, le sfide, in estrema sintesi, naturalmente. Sì. Uno è sicuramente quello del gaming online, quindi la possibilità che tutti gli utenti dei giochi online, noi abbiamo scherzato semplificando che sono tutti ragazzini, ma... No, purtroppo basta entrare in un bar e vedere, prego. Bravissimo, il gioco l'app più giocata su Facebook è probabilmente il poker online, quindi persone che fino a qualche tempo fa forse lo giocavano sui bar. E in questo la sfida di Facebook è quella della moneta virtuale, quindi di trasformare in denaro, anche spendibile, i crediti, gli eventuali crediti virtuali accumulati sui giochi. E questo sicuramente è un dossier aperto da tempo nel management di Facebook, nel suo operatore. La seconda? La seconda è quella di introdurre dei profili a pagamento. Lei ha citato LinkedIn. Su LinkedIn esistono dei profili premium, potrebbero apparire anche su Facebook. Attualmente la redditività per cliente di LinkedIn è la stessa di Facebook, ma Facebook ha una base utenti e una serie di funzionalità che possono superare di gran lunga quella di LinkedIn. Un altro aspetto è quello di applicare una tariffa, quindi far pagare le aziende che utilizzano il social network. Quindi non solo l'advertising, che oggi è la principale fonte di redditività, sì, di fatturato per il gruppo, ma quello di far proprio pagare le aziende che usano il proprio profilo per fare networking, quindi alla fine, certo, per fare relazioni. Mi dica in una battuta, non ho capito benissimo, lei dice da un lato lavorare sui giochi, dall'altro iniziare a far pagare di più la presenza. Apple è giustificato il prezzo invece, nuovo record, $660 per azione? Cioè Apple è solida? Dal vostro punto di vista? Che sia solida sicuramente, che capitalizza assai di più della borsa di Milano, sono dati sotto gli occhi di tutti. Viene da pensare che il prezzo incorpora, oltre che la capacità di marketing straordinaria di Apple, quella di essere il primo brand in termini di riconoscibilità al mondo, ma sicuramente si stima che nel cassetto lasciato dal suo mentore ci siano ancora molti, molti anni di progetti di successo. Beh, no, questo per dire che poi anche dentro il mondo della tecnologia, di internet genericamente dato, ci sono casi in cui tu analizzi come tutte le cose in maniera industriale un titolo con i fondamentali e altre che sono un po' più pompate. A me purtroppo vengono in mente gli anni 2000 con Poligrafica, San Faustino, Tiscali, Freedom Land, ma vabbè, la storia non si ripete mai se non sotto forma di farsa. Grazie all'amministratore delegato di Saxo Bank Italia Giampaolo Bazzani. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto. Focus Economia torna domani, sempre in versione estiva, cioè fino alle 18, dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.